Mani che ci tengono vicini, sogni che ci mandano lontani. Lascia che la vita ci sorprenda, anche se significa dirsi addio. Non c'è mai un'ultima primavera, se si può rinascere, che avventura. E poi quando troverai l'isola che non c'è, mi basta una cartolina. Porterà fortuna, non perderci di vista mai. Finirà. Sì! Finirà.